Questo è l'ultimo file audio, non solo della prima parte del libro, ma del tutto libro L'insegnamento del Regno dei Cieli. Perché la seconda parte dell'insegnamento è un'analisi con spiegazioni, illustrazioni di questa prima parte. Il primo capitolo, le cinque fasi del liberatore, che abbiamo studiato fino ad ora nei file audio dal 1 al 9. Questo l'intero capitolo, le cinque fasi del liberatore, è il corpo, il fondamento, è la struttura stessa dell'insegnamento del Regno dei Cieli. Ed è autosufficiente. E ho fatto la seconda parte dell'insegnamento e altre parti dopodiché, per chiarire gli insegnamenti nel primo luogo di Ari su Keter superiore, e dopodiché i detti di Yeshua stesso nel Nuovo Testamento, nella lingua santa che ha parlato. Cioè le sue parole vere che ha parlato, che ho analizzato espandendo la panoramica di ciò che è stato generalmente dato nella prima parte del libro, nel capitolo Le cinque fasi del liberatore. Ma cosa che va dopo, non è adatta per la registrazione in audio. E so cosa sto dicendo. La continuazione del libro dovrebbe essere studiato duramente, ma leggendo il testo del libro stesso. Ma, ripeto, il nucleo stesso dell'insegnamento è la prima parte, cioè il capitolo Le cinque fasi del liberatore.